Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. E allora, come va la borsa, ma anche come va la nostra economia? È arrivato già un messaggio, prima ancora di iniziare, dedicato proprio alle imprese, piccole e medie imprese del Nord-Est, e ce ne occuperemo in apertura perché oggi è uscito un dato sulla produzione industriale italiana. È un po' deludente, non tanto anno su anno, a marzo il calo è pesante, ma anche mese su mese, perché c'è una variazione negativa di quasi 4% a aprile rispetto a marzo, a marzo rispetto a febbraio, scusatemi. Questa sarà l'occasione anche per ragionare su come si stiano muovendo, soprattutto, lo avevamo già annunciato, altre volte ne abbiamo parlato, le piccole e medie imprese italiane. In questo contesto in cui la crisi è stata evitata nella sua parte più apocalittica, e quindi la tenuta del sistema finanziario e bancario tutto sommato con enormi danni e ferite c'è, però non è che la crisi sia dietro le spalle, anzi, e soprattutto è interessante capire come i vari distretti e tipologie di imprese italiane, grandi, poche, medie, molte, piccole, moltissime, stiano reagendo, chi reagisce perlomeno, a questa crisi, alle sfide che essa pone. Poi, come sempre dicevo, i mercati finanziari, inizia debole la settimana per tutte le borse. Parigi ha perso il 2,2, Francoforte l'1,1, Londra meno 0,6, l'America sta perdendo l'1,3% sul Dow Jones, il Nasdaq perde lo 0,16, l'euro è in rafforzamento a 1,36. Tra i titoli, come immaginabile, alcune banche che molte erano cresciute, ma non il Banco Popolare, che continua a crescere nonostante la giornata, e infatti guadagna il 4,35% a 7,20€, Lottomatica più 3,50, Snam più 2,85, Telecom Italia, anche lì le ipotesi uscite sui giornali nel corso del fine settimana, fusione o progetto, secondo quanto verrebbe così ipotizzato da come volere di Franco Bernabè, tra Telecom Italia e Telefonica, comunque più 2,13%. Il titolo Monte dei Paschi più 0,7%. Per il resto è tutto negativo, con differenze, perché si passa dal 6,6% di calo di UbiBanca, il 5,5% del calo di ST Microelectronics, il 4,80% quello di Finmeccanica e di Bulgari, il 4,5% lo perde la Popolare di Milano e anche la Pirelli, Saipem meno 4% come Fiat, Impregilo meno 3,90, Mondadori meno 3,5% come le Campari, Mediobanca meno 3,20% come Buzzi Unicem e Geox, il 3% lo perde Tenaris e anche CIR, infine, ma anche Buzzi Unicem ed Eni, Parmalat meno 2,7%, Prismian meno 2,6% come Autogrill, chiudiamo con A2A meno 2,5% ed Enel meno 2%. Borsa quindi, ma anche sistema produttivo italiano in apertura. Poi parleremo della class action, perché oggi c'è stata una conferenza stampa delle associazioni di consumatori. In realtà il tema della class action, ossia delle cause collettive, dopo che era stata congelata la legge, adesso sembra che non abbia potere retroattivo, è molto più complesso di quanto non sembri, ed è un tema delicatissimo perché nacque al tempo dei primi crack finanziari italiani, penso a Cirio e poi soprattutto a Parmalat, ma anche a Banca 121. Bisogna capire che tipo di class action è quella che si va a delineare, perché paradossalmente, secondo alcuni giuristi, non riguarderebbe i cittadini in quanto risparmiatori, ma solo i cittadini in quanto clienti o consumatori, e sarebbe veramente un paradosso. 349-238-6666 per i vostri sms. L'ultimo tema che tratteremo nella seconda ora però riguarderà il gettito fiscale, in netto calo oggi, e in calo anche quello che è il gettito o le entrate fiscali come conseguenza della lotta all'evasione. Dicevo, 349-238-6666, rapidamente per gli sms, rapidamente le altre notizie in breve. Petrolio cala, ma resta al livello di $57 al barile, leggermente sotto il livello della chiusura di venerdì, ma insomma $57,5 a New York, e la benzina è salita sui massimi degli ultimi 7 mesi, il gasolio è sopra 1,1 euro al litro. tant'è che il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, Pasquale De Vita, nostro ospite già in altre occasioni, ha detto che ci sono segnali di una ripresa dell'attività speculativa nei mercati per quello che riguarda il petrolio. De Vita ha anche sottolineato che non c'è un motivo per fare salire il prezzo del greggio, e quindi del petrolio, perché i consumi sono bassi e la produzione di petrolio c'è ed è abbondante. Quindi si è chiesto lui stesso perché aumenta il prezzo del petrolio. Figuratevi se lo sappiamo noi. Euribor aggiorna nuovo minimo storico all'1,30%, il tasso interbancario di riferimento a 3 mesi. Secondo il presidente della BCE Trichet, la crisi ha toccato il fondo ed alcuni paesi mostrano segnali di crescita e i mercati valutari sembrano tornati alla situazione precedente al fallimento di Lehman Brothers. Dicevamo delle entrate fiscali, solo un flash, poi ne parliamo nella seconda ora. Meno 4,6% le entrate fiscali tra gennaio e marzo, ossia 4 miliardi in meno nelle casse dello Stato, lo ha comunicato il Dipartimento delle Finanze. È chiaro che la crisi economica pesa molto moltissimo su questo dato, perché le società fatturano meno, pagano meno IVA e infatti l'IRES, il gettito delle tasse sulle società, ha registrato un calo del 12% nei primi 3 mesi. In calo anche l'IRAP, meno 4,6%, e infatti in 3 mesi l'IVA ha perso come gettito 2 miliardi e mezzo, quasi 2 miliardi e 4, con un calo del 10%. Cala purtroppo anche il gettito derivante dai ruoli, dove appunto sono inserite le cartelle esattoriali dovute alla lotta all'evasione, 888 milioni, sono 12 milioni di euro in meno rispetto al periodo precedente, un 1,3% in meno. Di pubblica amministrazione parleremo anche più avanti. Adesso, dicevo, il primo tema in apertura, vedo già molti messaggi, come il tessuto di imprese, che tra l'altro in Italia è quanto mai variegato, sta reagendo e si sta comportando rispetto a questa crisi. Lo analizzeremo per macro aree geografiche, quindi nord-ovest, nord-est, centro Italia e anche sud. Dicevo quanto mai variegato, perché è chiaro che fino a dicembre, gennaio, quando la crisi era nella sua parte più forte, tutto scendeva in borsa, tutto scendeva anche nell'economia reale. Adesso che un po' di stabilizzazione perlomeno c'è stata, non si può parlare di ripresa vera e propria, anzi, ma di stabilizzazione sì, è probabile che quello a cui si assiste è un mondo delle imprese, grandi, piccole e medie, che si muove in ordine più sparso rispetto al lato solo negativo di fine 2008 e inizio 2009. Ne parliamo perché oggi, come dicevo, è uscito il dato sulla produzione industriale a marzo, meno 4,6% rispetto a febbraio. Questa è la parte più così problematica, perché vuol dire che c'è una contrazione anche mese su mese, meno 18% rispetto all'anno prima, anzi, corretto per giorni lavorativi, siamo a meno 23,8%. Ma se era immaginabile che ci fosse un calo brusco rispetto a marzo 2008, un po' più di preoccupazione lo desta il fatto che c'è un calo anche nel mese su mese. Sentiamo da questa scheda che cosa e quali settori hanno più perso e chi invece ha tenuto. Durante lo scorso marzo, per la nostra industria, la primavera proprio non si è vista. L'attività delle fabbriche è diminuita per l'11° mese consecutivo, per di più accentuando il calo rispetto ai primi 2 mesi dell'anno. Le gelate più intense hanno colpito ancora una volta l'auto, ma il mese è stato particolarmente duro anche per elettronica e siderurgia. Nonostante i primi effetti degli incentivi, la produzione di quattro ruote è infatti risultata più bassa del 35% rispetto allo stesso mese del 2008. Per l'elettronica il calo ha invece raggiunto il 36%, mentre la produzione di metalli è scesa di oltre il 38%. A trovarsi in grave difficoltà sono stati anche due settori di forza del Made in Italy, come la meccanica e il tessile abbigliamento, che hanno registrato cali rispettivamente del 29 e del 25%. La lista dei segni meno è proseguita poi con la chimica, meno 20%, e l'industria del legno e della carta, meno 19%. Ha invece tenuto l'alimentare, che ha contenuto a un meno 1% la flessione produttiva rispetto all'anno prima. Meglio di tutti ha fatto però la farmaceutica, che ha chiuso lo scorso marzo con una crescita della produzione di oltre il 5%. Secondo le stime del Centro Studi di Confindustria, la situazione complessiva della nostra industria dovrebbe iniziare a mostrare qualche timido miglioramento con i dati di aprile, quando si dovrebbe registrare un rimbalzo dell'1,5% rispetto ai livelli minimi raggiunti lo scorso marzo. Un po' di speranza arriva dal Centro Studi Confindustria, che dice che ad aprile arriverà finalmente, dopo 11 mesi di cali continui nella produzione industriale, un rialzo rispetto al mese precedente, quindi rispetto a marzo, anche se sarà ancora due cifre, stima un 23% in meno il calo anno su anno. Però l'importante, ripeto, è vedere come si muove il mese su mese. Di questo ha scritto, o meglio, ho cercato di fotografare le diverse facce e anime dell'industria italiana, Aldo Bonomi, sul Sole 24 Ore in queste settimane, in questi mesi, con un viaggio che si chiama Le tracce e i soggetti tra i microcosmi. E allora, buonasera e grazie ad Aldo Bonomi in collegamento con noi, che è direttore dell'Istituto di Ricerca Aster e appunto editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Dunque, prima domanda, ne ho un po' per lei, quindi cercherò di andare rapido. Dal caso Fiat Chrysler al caso dell'immobiliere Brianzolo, che però poi riesce a fare rete e a trasformare il Salone del Mobile di Milano nell'evento più mondano, rappresentativo, glamour, addirittura battendo la moda, al caso che lei cita del distretto delle piastrelle nell'Emilia e le aziende di Sassuolo che hanno generato un distretto vicino a Mosca, a Stupino, qual è il comune denominatore di queste imprese che non solo accettano la sfida ma riescono a ottenere anche dei risultati? Beh, se non vogliamo essere sciocchi, il comune denominatore in primo luogo è capire che non siamo certamente in una fase di primavera e che ovviamente stiamo attraversando un periodo in cui le gelate ci sono. Dentro questo, diciamo che l'animale imprenditore, senza offendere nessuno, una terminologia keynesiana, il nostro capitalismo di territorio come reagisce? Reagisce con due fenomenologie, due fenomeni. Allora, certamente il fenomeno prevalente, proprio perché la primavera non è ancora arrivata, è quella dell'attesa. Diciamo che il corpaccione delle piccole e anche delle medie imprese italiane è dentro una fase di attesa. Dentro questa fase di attesa ci sono delle minoranze agenti. Le tre cose che lei ha citato, se vogliamo vederlo, è un modo in cui delle minoranze agenti stanno dentro la crisi. Allora partiamo dalla prima, quella su cui ormai si discute su tutti i giornali. Non c'è dubbio, è un dato di fatto, che la Fiat è una minoranza agente dentro la crisi. Si sta muovendo per andare da Torino a Detroit, da Torino in Germania. Questo fatto è un fatto che non è risolutivo, ma ovviamente è chiaro che questo è un fatto molto importante per tutta la filiera dell'automotive territorializzata, che noi sappiamo che non riguarda solo la Fiat, ma riguarda quelle centinaia, migliaia di imprese che stanno in filiera, ma non solo rispetto alla Fiat ovviamente, parlo ad esempio delle filiere della meccanica, della meccatronica, che rimanda ad esempio a Brembo, che è un'impresa leader media che sta vicino a Bergamo, oppure penso a tutte le filiere territorializzate che lavorano per il sistema tedesco, Volkswagen, BMW eccetera, che stanno nel nord-est, mi risulta che ci sono 400 imprese che stanno in subfornitura in questa rete rispetto a questo, per non parlare del territorio emiliano, della piattaforma emiliana, in cui retorica vuole che si citi la solita Ferrari, ma ci siamo capiti. Questo è il primo punto, quella minoranza gente è una minoranza gente che apre spazi dentro la crisi. Come è una minoranza agente che apre spazi dentro la crisi anche il Salone del Mobile, rispetto a un settore estremamente maturo che tutti quanti davano per totalmente in declino, che è il settore legno arredo, che ha una sua capacità che riguarda soprattutto, se penso a zone sempre territorializzando, penso alla Brianza, penso alla zona del Pordenonese, penso alla zona di Pesaro, eccetera, eccetera, queste aree qua, che ovviamente hanno la loro capacità di muoversi. Ovviamente il Salone del Mobile cosa fa? Fa precipitare a sistema una capacità di reazione in cui le imprese, per aspettando la primavera, investono in design e in capacità competitiva, e quella filiera che viene avanti. Come, altro esempio, quando dentro un altro settore maturo, maturissimo, che è quello delle piastrelle, il distretto delle piastrelle di Sassuolo, vedi che ci sono delle imprese che sono minoranze agenti, le cito, Mapei o Marazzi, che vanno a Stupinov, vicino a Mosca, e non è che vogliono replicare i distretti, sappiamo tutti che i distretti non si replicano ovviamente, ma iniziano un meccanismo di penetrazione di mercati, di rapporto ad esempio con l'energia, basti pensare a quanto costa, quanto è il costo di produzione e di i costi del gas per produrre le piastrelle, che è una cosa estremamente importante, vanno a Mosca e si muovono in questa direzione. Io dico che oltre a questo senso di attesa, che ovviamente è in attesa dalla primavera e dell'estate, e quindi l'indicatore poi del Centro Studi Confindustria dice forse tra un mese avremo l'1,5 più, avremo un riapparire del segno più. Benissimo, dentro questo ci sono le minoranze agenti, questo è il quadro generale. Allora, quadro generale, lei l'ha spiegato in maniera molto chiara, c'è una pattuglia di imprese, visto che siamo in attesa dell'arrivo del giro, uso anch'io una metafora ciclistica, una pattuglia in avanti, una fuga in avanti positiva, virtuosa, e cioè poi c'è il gruppone che attende di capire la piega di questa crisi, attende di vedere anche come andranno gli ordinativi. Molti ascoltatori, sì, un attimo, molti ascoltatori fanno notare che le imprese in realtà hanno retto in questi mesi perché hanno svuotato i magazzini, ma poi da lì a ripartire ce ne vorrà. Prego Bonomi. Beh, c'è un altro fatto secondo me positivo dentro la crisi, e che per la prima volta si è applicato, se posso usare questo termine, una specie di cassa integrazione post-fordista, mentre prima la cassa integrazione virgolette riguardava solo i lavoratori e le intelligenze, i saperi, i manuali e non solo, che stavano dentro la grande impresa. Per la prima volta la cassa integrazione in deroga e i fondi regionali che sono intervenuti rispetto a questo hanno avuto come attenzione anche la tutela di quel patrimonio di capitalismo territoriale, di saperi, di economia diffusa, che sono poi il vero patrimonio, e quindi hanno permesso che l'attesa diventasse meno drammatica. Cosa voglio dire? Cioè che nell'attesa non si perdono le risorse umane, che nelle piccole imprese o nelle medie imprese sono fondamentali, perché poi sono i saperi contestuali e non solo, anche i saperi formali con cui si compete, e quindi hanno permesso di tenerli rapportati all'impresa. Ecco, l'attesa è stata anche un'attesa virtuosa da questo punto di vista, e il fatto che si sia applicato per la prima volta una cassa integrazione, usiamo questo termine, territoriale, beh, mi pare sì, che abbia aiutato a tenere. Allora, un attimo, perché dicevo sta arrivando abbiamo anche gli aggiornamenti del giro, e poi un'altra domanda per lei al contrario, cioè che cosa condividono invece quei distretti che sono invece in estrema difficoltà. Allora, professor Bonomi, andiamo a un caso opposto, poi le chiederò nel finale di darci dei flash, delle didascalie sul nord-ovest, nord-est e centro del paese. C'è un caso opposto a quelli virtuosi che lei citava, non me ne abbiano i pratesi. Insomma, il caso di Prato è un caso di un distretto classico, forte, fortissimo, il tessile ha avuto i suoi problemi, ma rispetto ad altri distretti che si sono reinventati, cos'è successo a Prato, visto che dalle notizie che ci arrivano un po' le aziende sono in difficoltà, un po' vendono ai cinesi, per cui comunque non è una bella notizia, perché vanno a vendere, diciamo, rinunciano a stare sul mercato. Beh, se posso fare una battuta. Sì. Certo, in questi mesi noi ci siamo molto applicati a dire che è stata una follia, virgolette, ma non solo una follia, si potrebbe scrivere e dire tante cose, ma fondamentalmente qualcuno ha pensato che si poteva fare denaro con il denaro, ci siamo capiti? Beh, quando in un distretto, in un sistema produttivo, nel capitalismo di territorio, entra dentro il, diciamo così, il demone della rendita, attenzione, beh, ovviamente è chiaro che non c'è più né attesa né minoranza agente. Il demone della rendita è quello per cui quando a un certo punto in qualsiasi distretto produttivo si dice ma forse conveniva allora investire nella rendita e quindi ad esempio pigliare i capannoni e affittarli giustamente dal loro punto di vista ai cinesi, nulla di male. Ovviamente è chiaro che si privilegia la rendita, lentamente ovviamente si svuota di contenuti e di capacità operativa la dimensione di un territorio, di un sapere territoriale, è chiaro che poi i risultati sono questi, ma questo è un processo che riguarda ben prima la crisi, sì, è dal 2000 in avanti che è in atto una ristrutturazione del capitalismo manifatturiero di questo paese e in questa ristrutturazione ci sono distretti che hanno fatto il salto e sono diventati piattaforme produttive, uno non parla più ad esempio dei distretti del distretto del Brenta, parla della pedemontana veneta, uno non parla più del distretto del mobile in Brianza, parla della pedemontana lombarda, dove se vogliamo citare i dati che sono stati citati prima da Confindustria, lei troverà la Bracco che ha il segno più rispetto alla farmaceutica, troverà la Brembo, troverà la Gusta e i suoi elicotteri che comunque vanno ancora avanti, allo stesso tempo troverà dei segni meno, ma troverà una piattaforma produttiva enorme che compete nella globalizzazione. Quando non si fa questo salto è chiaro che si rischia, non c'è mica solo Prato, anche Carpi ha attraversato, certo, questo problema, in cui il problema è questo, e quindi capire come ne uscirà. Ne uscirà se, andando oltre la logica della rendita, capirà cosa significa, perché certamente lì esiste anche un distretto tessile che i cinesi hanno messo in piedi, virgolette, di seconda schiera, di seconda fascia, come vuole, ma c'è. E quindi quello è il punto. Però le minoranze agenti sono quelle che vanno da Torino a Detroit, quelli che fanno il salone del mobile e sono quelli che vanno da Sassuolo a Stupino. Chiaro, quindi che creano quelle che voi chiamate le reti lunghe e non solo il distretto, come era una volta inteso, quindi un luogo geograficamente limitato. Perché questo ancora ben prima della crisi, sì, questo sì. È virgolette il passaggio nella globalizzazione e nell'internazionalizzazione. La crisi ci ha sorpreso in questa grande transizione e quindi introduce elementi di difficoltà, perché dentro la crisi non è che, ad esempio, la difficoltà di trovare un altrove. Prima, nelle crisi precedenti, si diceva vabbè, non tira più la Germania, tira il Brasile, tira la Cina e quindi si cercano altri mercati. Attualmente si è lì che si vede come, in attesa di come si aprono di nuovo spiragli da questo punto di vista. Quindi altro elemento oltre alla pattuglia e invece al gruppone, anche l'elemento per cui vincono quegli ex distretti, direi, che si sono trasformati in piattaforme, che è una cosa più complessa, più ampia, che prevede diversi soggetti, non solo un gruppo di aziende specializzate in un unico comparto, e quindi piattaforme che godono anche di servizi infrastrutturali e servizi, esatto, e servizi immateriali. Il capitalismo manifatturiero e il capitalismo delle reti, è chiaro. Sì, sì, sì, no. E poi hanno questa capacità di creare reti lunghe, per cui si estendono, proprio nell'immagine della rete lunga, anche all'estero, con non tanto e solo delocalizzazioni, ma internazionalizzazione di prodotto. Ultimo aspetto, Bonomi, visto che è un paese comunque diverso, lei cita spesso il termine capitalismo dei territori, che vuol dire poi capitalismi diversi a seconda dei territori italiani, qual è lo stato dell'arte? Vorrei fare questo brevissimo gioco geografico, partendo dal nord-ovest, poi nord-est e poi centro del paese. Il nord-ovest. Insomma, per fare anche qui una battuta, io uso il termine plurale invece che singolare, non dico il capitalismo, cioè questa crisi è anche frutto di alcuni fondamentalismi, per cui si diceva ad esempio che l'unica forma del capitalismo era fare finanza. Beh, non è così, ci siamo accorti che ci sono più capitalismi dentro questo, che la finanza è in rapporto ovviamente alla produzione delle merci, la loro circolazione, la globalizzazione, tutto ciò che si vuole, però allo stesso tempo dentro questo i capitalismi fanno i conti anche con quelle che sono le lunghe derive delle tradizioni storiche che bisogna tenere in conto. Quindi se lei va nel nord-est, che è caratterizzato, diciamo così, che è un capitalismo di territorio più giovane, no? Però ovviamente si torna ai fondamentali, quindi se lei va nel nord-est le dicono bene, dentro la crisi torniamo alla famiglia, torniamo al capannone, torniamo al campanile. Ovviamente non basta questo, perché se uno pensa che dentro la crisi si protegge rimettendosi all'ombra del campanile, che poi non esiste più, ci siamo capiti, non ce la fa. Però nel nord-est segnalo che in questo momento, ad esempio, proprio 15 giorni fa, è stato celebrato un festival, tanto per dire, delle città industriali, molto importanti. Delle città imprese, sì, che abbiamo seguito anche noi, certo. Quindi da Schio, eccetera, eccetera, Rovereto, in cui lo sforzo qual era? È uno sforzo collettivo per disegnare quella città infinita veneta, che è la nuova piattaforma produttiva che ha bisogno di servizi, di innovazione, eccetera. Ed è solo mettendo assieme il campanile, il capannone e la famiglia con questi nuovi processi che il Nord-Est ridisegna dentro la crisi. Quindi in maniera un po' sintetica e per forza superficiale, possiamo dire che nel Nord-Est c'è stato un ritorno a quegli elementi tradizionali che avevano contribuito al boom, al miracolo del Nord-Est: famiglia, rapporti poco sindacalizzati, un forte coesione sociale, la tradizione del capannone unito al campanile. Però lei nota con interesse che ci sia comunque un tentativo, come si direbbe, di autorappresentarsi, fatto dal Festival della Città Impresa, per esempio, noi l'abbiamo seguito a lungo, in cui si è cercato di dire: noi siamo un tutt'uno, non siamo mille campanili, adesso banalizzo un po', non siamo mille campanili, ma siamo un unico grande sistema fatto e costruito in questo modo, e quindi condividiamo, al di là di quello che si produce, condividiamo un terreno comune. Il nord-ovest? Beh, nel nord-ovest il caso Fiat è esemplare, anche lì si è tornati, per fortuna, tornando ai fondamentali, si è trovata una Fiat che era meglio, cioè che era uscita da una crisi industriale, non dimentichiamolo che la crisi della Fiat era appena, virgolette, in via di soluzione quando è scoppiata la madre di tutte le crisi. Beh, si è trovato un tessuto di cultura industriale che ha ricominciato a ridisegnare la sua competizione nel mondo, e questo va a vantaggio di quel territorio dove, non dimentichiamo che ovviamente l'industria dell'auto ha sedimentato anche medie imprese che dalla meccatronica o che altro, che non lavorano solo per Fiat ormai, lavorano sul mercato globale. Quindi anche lì si è tornati ai fondamentali, che sono poi ad esempio anche la capacità di relazione tra le forze sociali, che hanno una tradizione, sembra strano dirlo, una tradizione di star dentro la crisi, perché non è che la crisi a Torino sia una cosa che è precipitata solo oggi, no, è chiaro? Ha colpito ovviamente quella crisi della modernità come tipo Motorola, ovviamente, no? Di fatto è diventato emblematico, eccetera. Però il nord-ovest ha tenuto rispetto a questo. Altrettanto, se lei va nel centro Italia, o citiamo la Via Emilia, e io la chiamo quella medietà operosa, nel senso in cui quel tessuto produttivo era già cambiato, perché non è che nella Via Emilia sappiamo tutti, classifica del Sole 24 Ore di oggi, mi pare, regione maggiormente competitiva, la regione Emilia-Romagna. Ci sarà pure un fatto, no? Se questa regione è riuscita ad internazionalizzarsi e ad essere maggiormente competitiva rispetto ad altre, significa che ha fatto questo salto. Non tutto ciò è avvenuto in tutto il centro Italia, però ad esempio anche le Marche hanno una tradizione, una modernizzazione. Direi che quello che Fua chiamava il modello nord-est-centro si è mosso in questa direzione. Poi è chiaro che tutto questo non lo ritrova in maniera uniforme in tutto il mondo. No, ma è per questo che andiamo ad analizzare anche i casi per casi, perché ripeto, con una crisi e con una recessione economica che si è fermata, ma e adesso non si capisce come ripartirà, è chiaro che poi aumentano le differenze rispetto a prima, quando era tutto nero. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di borse, di fisco. Vorrei concludere però l'approfondimento che è nato con il dato di oggi di cronaca sulla produzione industriale: ancora male a marzo, sia rispetto a un anno prima, sia rispetto a febbraio. con Aldo Bonomi stavamo ragionando delle differenze, lo dico a chi scrive. Attenzione, in questo momento è difficile, non si può più fare di tutto un erbo un fascio come quando, lo ripeto per la terza volta, la crisi era nella sua parte più nera e tutto crollava. Ci sono casi molto diversi, ci vorrebbero intere puntate per analizzarle ognuno. A chi da Prato ci dice: ma guardate che i cinesi hanno preso i capannoni degli italiani con il benestare di tutti, anche delle istituzioni locali. Ma siamo d'accordo, infatti Bonomi diceva: sono stati spesso imprenditori a darglieli perché preferivano la rendita, cioè l'affitto del capannone, alla produzione. Questa era la critica. Bonomi, vorrei concludere con il Sud e quindi col centro-sud, visto che lei ha distinto tra Emilia come caso virtuoso e le Marche meno in altre aree del paese, e capire a questo punto qual è la sfida principale, se riusciamo a tenere tutto in una risposta per ripartire, perché ormai la crisi finanziaria si è fermata. Beh, anche lì io credo che bisogna guardare alle minoranze agenti. Allora, cito sempre questo caso: quando la Confindustria di Bari a un certo punto ha messo assieme le sue imprese maggiormente innovative, e sto parlando del manifatturiero, ma non solo, anche nell'agricoltura e in altri settori, e le ha portate a rappresentarsi a Milano, ha fatto una buona operazione. Non ha più detto che c'era c'è un sud in difficoltà rispetto al quale il problema, sappiamo tutti, degli ultimi fondi europei che arriveranno è la sfida dei prossimi anni per vedere se si riesce a modernizzare questa parte del paese, sappiamo tutti i problemi che ci sono, però loro hanno detto: no, c'è un sud che ha una capacità di rappresentazione, ha una capacità di reti lunghe, eccetera. Cito questo, ma cito anche che dentro, ad esempio, il territorio siciliano, sappiamo tutti che se quel modello di sviluppo di portare l'industrializzazione senza fratture non ha funzionato, ci sono settori come l'agroalimentare e il turismo che producono eccellenza e che riescono a reggere in parte l'impatto della crisi. Quindi bisogna anche qui lavorare sulle minoranze agenti. Se poi le minoranze agenti riusciranno ad essere, virgolette, del grande punto interrogativo, i soggetti che attraversano la crisi, e in questo farsi anche una nuova elite, una nuova classe dirigente, il grande punto interrogativo, è chiaro. Questo riguarda dalla Sicilia alla Lombardia, un dibattito molto più ampio che rimanda al sistema paese. Cioè, se riusciranno queste pattuglie, come abbiamo chiamato noi, in fuga rispetto al gruppone che pedala, riuscirà poi a tracciare la linea e a mostrare un modello per cui verranno imitati, questa è diventare classe dirigente in quel modo, questa è la grossa sfida. La nostra sfida, io qui mi fermerei, perché il compito nostro è quello di fare racconto, interpretazione, dire che questi soggetti ci sono, e credo che invece poi la palla vada rimandata ad altri grandi temi, che sono poi i temi della politica, dell'identità del paese, eccetera, e di come ci ridisegniamo dentro la crisi nella globalizzazione, che è la grande questione aperta. Grazie a Aldo Bonomi, editorialista del Sole 24 Ore, che appunto in queste settimane ha condotto, io ve la segnalo, questo viaggio, perché poi ci sono tutti i nomi e cognomi, noi non li abbiamo fatti per motivi di tempo, ma queste imprese hanno un nome, hanno una storia, per cui i vari casi studiati dalla Piastrella, ma anche da società, penso all'Emilia a Modena, la UAM di Cavezzo produce dispositivi che vende alla Cina, e i ricercatori della Graf di Nonantola, spero di pronunciarlo bene, provincia di Modena, si dedicano alla ricerca e allo sviluppo e vendono sistemi alla BlackBerry. Insomma, ci sono casi, decine e anche centinaia di casi che possono rappresentare un modello. Rispondo brevemente a altri messaggi. Smettila di dire che la crisi è finita, di spalleggiare il governo. No, non abbiamo mai detto che la crisi sia finita, abbiamo detto che il rischio fatale di questa crisi, quello finanziario, di tenuta del sistema finanziario, sembra a tutti gli effetti essere stato evitato, e da più parti si dice il fondo è stato toccato. Una volta che tocchi il fondo non vuol dire che stai bene, vuol dire che non vai più sotto. Attenzione a non confondere o forzare le analisi. Adesso ci sono le informazioni per chi è in viaggio, poi commentiamo le entrate fiscali e anche questa borsa che, devo dire, ha chiuso non sui minimi, ma comunque con un calo di 1,5% sia sull'S&P MIB che sul MIBTEL. Peggio ha fatto Parigi, -2%. L'America sta perdendo l'1,5%, Francoforte ha perso l'1%, Londra ha perso lo 0,7%, spicca proprio in una giornata tendenzialmente di cali, di nuovo il Banco Popolare, che ha chiuso con un rialzo del 5% a 7,24 euro. Di nuovo in diretta, allora si è detto nella seconda ora parleremo di borse e prima seduta negativa e di chiaramente entrate fiscali. L'altro tema che avevamo annunciato riguardava la class action, perché oggi se ne è discusso in una conferenza stampa congiunta tra numerose associazioni dei consumatori, Adiconsum, Federconsumatori e Movimento Difesa del Cittadino. Che cosa è successo? La class action è quel provvedimento che è presente in altri paesi, che permette le cause collettive, cioè un insieme di cittadini, invece che fare cause individuali, fanno cause collettive. Fu nominato molto, evocato molto ai tempi di Parmalat, di Cirio, ma anche delle obbligazioni argentine, perché dà teoricamente più potere e raggruppa cittadini che si sono trovati nella stessa situazione. Originariamente la class action sarebbe dovuta entrare in vigore il 29 giugno 2008. Nel maggio 2008 c'è stato un primo rinvio a 6 mesi. A fine anno un nuovo slittamento al 1 luglio 2009. Nel frattempo, mercoledì scorso, è stato introdotto un emendamento del Popolo della Libertà che elimina del tutto la retroattività, cioè il fatto che si applichi anche a cose del passato. Inizialmente infatti valeva fino a luglio del 2008. In questo modo, per esempio, questo strumento, anche se passasse, non sarebbe utilizzabile per gli obbligazionisti all'Italia, oltre che ovviamente per i casi Parmalat, Cirio e obbligazioni argentine. Sentiamo intanto oggi la posizione dei consumatori come espressa da Paolo Landi, segretario generale della Adiconsum, al microfono della nostra Paola Cavalli. Si parla di interessi identici. Interessi identici sono pochissimi, normalmente sono interessi omogenei tra un consumatore e l'altro. E quindi, se rimane la parola identico, vuol dire restringere questa portata dell'azione collettiva in modo notevole. Non solo, ogni consumatore deve portare in tribunale la documentazione probatoria. Provi a pensare che cosa succede quando migliaia di persone o milioni di consumatori che sono vittime devono andare su quel tribunale a portare la propria documentazione. Sarebbe la paralisi totale di quel tribunale. Proviamo a pensare, e c'è scritto nella norma, che nel caso in cui il giudice non ammetta l'azione collettiva, non la riconosca, il giudice può stabilire una condanna dei consumatori a pagare una multa all'impresa, cosiddetto danno punitivo. Quindi un rischio elevatissimo per coloro che si avviano a realizzare delle azioni collettive. Infine, il testo dice che chi promuove l'azione collettiva deve fare pubblicità dell'azione collettiva. In altre parole, prendere delle pagine a pagamento dei giornali per dire c'è questa azione collettiva in corso. Anche questo i consumatori non sono in grado. Noi diciamo di sostituire pubblicità con informazione. Quindi le 5 modifiche che noi proponiamo sono 5 modifiche ragionevoli per rendere questo testo efficace. Così i consumatori e le associazioni che oggi si sono riunite. Va anche detto che sulla class action siffatta vi era stata una posizione molto critica di Confindustria, che prevedeva per gli imprenditori tempi lunghissimi per qualunque azione, e il fatto che potessero essere promosse più azioni da parte di soggetti diversi poteva generare conseguenze negative per l'azienda chiamata in causa. Perché praticamente se uno solo dei consumatori fosse risultato insoddisfatto poteva ricominciare tutta la procedura in forma individuale, mentre si diceva beh, almeno se ti unisci a un gruppo poi comunque vada la sentenza, non torni più sull'argomento a livello individuale. Giovanni Negri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. A me la cosa che più ha sorpreso di questa legge, poi vedremo la retroattività, in effetti escluderebbe tutti gli obbligazionisti all'Italia a questo punto, però è che si parla, se ho ben capito, di cittadino come consumatore e di cittadino come cliente, ma non di cittadino come risparmiatore, quando inizialmente i casi erano nati proprio su vicende di prodotti finanziari. Obbligazioni Cirio, obbligazioni Parmalat, Banca 121, all'Italia, venduti ai cittadini come risparmiatori, con il paradosso che l'unico a non poter ricorrere alla class action sarebbe il cittadino in quanto risparmiatore? Questo paradosso potrebbe effettivamente verificarsi, nel senso che da subito, cioè dalla versione primitiva della class action, quella introdotta nel nostro ordinamento e poi stoppata comunque nell'ambito della finanziaria 2008, il perimetro di applicazione dell'azione collettiva fu controverso, e soprattutto per quanto riguarda l'applicazione al settore finanziario, nel senso che ci fu chi sostenne che da una parte la class action è semplicemente uno strumento per far agire dei diritti e quindi non c'è nessun problema di applicazione a nuovi settori e anche di applicazione per il passato. Dall'altra ci fu invece chi sostenne, e da un certo punto di vista anche Confindustria corroborò questa posizione, che la class action in sostanza attribuiva nuovi diritti, quindi non dovrebbe essere fatta valere per il passato, e che comunque nell'ambito finanziario esistono già strumenti per far all'interno del testo unico della finanza per far valere collettivamente i propri interessi. Ecco, alla luce anche della versione che si sta delineando, insomma, sulla base di quell'emendamento presentato dalla maggioranza, in realtà già da parecchio tempo l'aveva presentato il governo, la scorsa settimana è stato votato, quindi insomma sta prendendo una fisionomia abbastanza precisa l'azione collettiva. Ecco, non è risolutivo da questo punto di vista, perché comunque l'azione collettiva viene collocata all'interno del codice del consumo, che è una legge ben precisa, parla sempre di consumatori e utenti e mai di risparmiatori e investitori, e quindi diciamo così alimenta almeno qualche dubbio rispetto all'applicazione al settore finanziario, o meglio si potrebbe ritenere che sia applicabile a eventuali class action proposte nei confronti degli istituti di credito in quanto intermediari e in quanto propositori rispetto ai risparmiatori di quei contratti che vanno che sono disciplinati esplicitamente dal codice civile e conclusi attraverso moduli e formulari, cosiddetti contratti di serie in sostanza. Sì, mi sembra un gran pasticcio, per quel poco che ci capisco io, nel senso che da un lato si poteva anche copiare modelli presenti in altri paesi esteri, perché insomma, le cause collettive in cui un gruppo di cittadini si mette assieme già esistono, non è una novità italiana. Dall'altro, in questo modo, a forza di botte, di modifiche, si fatica a capire il tutto. Per concludere, vorrei capire una cosa, Giovanni Negri, però nel frattempo il ministro Brunetta la settimana scorsa ha annunciato azioni tra virgolette collettive nei confronti, la possibilità di azioni collettive nei confronti della pubblica amministrazione e di chi eroga servizi alla pubblica di pubblica amministrazione. Che cosa vuol dire che a questo punto, come ha scritto il direttore generale di Confindustria Galli, un gruppo come la Telecom Italia potrebbe essere sotto la class action, diciamo, di Brunetta e quella invece dei privati? Sì, diciamo che l'azione collettiva è diventata una improvvisa moda del nostro legislatore, nel senso che oltre a quella classica nel settore privato, anche il ministro Brunetta, nella sua ansia, diciamo così, riformatrice, ha proposto la scorsa settimana un provvedimento, un decreto legislativo che introduce all'interno del nostro ordinamento una forma di azione collettiva a presidio dell'efficienza dei pubblici servizi. In sostanza, i cittadini possono proporre un'azione collettiva, ma cosa possono ottenere? Non dei soldi, ma il ripristino di standard e parametri di efficienza, ad esempio negli ospedali, piuttosto che nelle ferrovie, ma non otterranno mai un euro da queste loro azioni collettive. Quindi, anche in questo caso, può proporla un singolo cittadino se sarà in grado di aggregare gli interessi di tutta una classe di utenti, in questo caso, anche le associazioni o comitati spontanei. Però l'obiettivo sarà sempre rimettere quel servizio nelle condizioni di poter funzionare, mai di ottenere una somma di denaro. Allora, c'è chi dice non fate i nomi, la class action l'aveva inserita Prodi, l'ha tolta Berlusconi, l'abbiamo detto, inserita a inizio 2008 e poi nel maggio 2008 il primo rinvio di 6 mesi. Il problema è capire che poi quello che esce dalla legge, al di là di chi l'ha proposta e le modifiche, non sia un tale pastrocchio, perché io non ci sto capendo più niente, adesso anche la retroattività non ci sarà più, che poi non si sa più come utilizzare, o se viene utilizzato male e con conseguenze anche negative per tutti i soggetti. Grazie Giovanni Negri. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, prima di arrivare all'altra notizia di oggi, ossia le entrate fiscali, le entrate nelle casse dello Stato. I dati non sono buoni nemmeno sulla lotta all'evasione, però la borsa. Prima seduta della settimana, dicevamo, con segni meno dovunque, Parigi perde quasi il 2, Francoforte l'1%, Londra meno 0,6, l'America sta perdendo 1,5% sul Dow Jones e lo 0,3% sul Nasdaq, Milano ha perso l'1,5 sull'S&P MIB e l'1,6 sul MIBTEL. Chiaramente con un indice del genere molti realizzi. Io ricordo che da inizio anno la borsa è ancora positiva con il recupero che ha fatto dal 9 marzo, siamo a un MIBTEL in rialzo del 6% e un S&P MIB del 5%, e soprattutto che i rialzi medi dal 9 marzo, dal punto di minimo di quest'anno della borsa, sono stati tra il 50 e il 54% medi, alcuni titoli hanno fatto anche l'80%. Vorrei partire dal caso più sorprendente, ossia in una giornata in cui tutte le banche perdono, UBI Banca meno 7%, Popolare di Milano meno 4,7% e ancora banche assicurative, Fondiaria Sai perde il 3% e ancora perde come titolo Unipol l'1,7%, Intesa contiene il calo 0,40%. Dicevo, in una giornata del genere spicca il Banco Popolare che guadagna il 5,1%, bene anche Monte dei Paschi più 1,6%. Da qui vorrei partire con i colleghi di Radio Colli sulle 24 ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Banco Popolare. Sì, Banco Popolare oggi... E a questo punto anche UBI, che sono veramente il migliore e il peggiore da S&P MIB. Sì, Banco Popolare oggi ha fatto più 5%, ma soprattutto vale la pena segnalare che solamente, diciamo, da inizio maggio ha registrato un progresso di oltre il 40%, non solo, ma dai minimi del 9 marzo ha registrato un rialzo superiore al 270%, il titolo del Banco Popolare. Diciamo, è stato un trend, un rialzo dietro l'altro da marzo. Questo perché gli analisti hanno iniziato a emettere giudizi positivi, hanno iniziato a credere diciamo nel riassetto del gruppo, ed è stato sicuramente il titolo che ha registrato la miglior performance insieme poi ad esempio a quella di Unicredit, ma sicuramente dopo la performance degli ultimi giorni il Banco Popolare ha portato a casa il risultato migliore. Sì, tra l'altro segnalo che dopo essere arrivato a 22 euro per azione il Banco Popolare, per via anche della vicenda italiana, all'ISE, ma non solo, era sceso a livelli di 2,5 euro, 3 euro per azione, per cui adesso siamo a 7,24 euro. E l'effetto Saviotti, il nuovo amministratore delegato del Banco Popolare, evidentemente c'è stato, e anche la risoluzione, che non è piaciuta a molti azionisti, della vicenda Italease con l'offerta pubblica sul titolo. Il dato opposto invece è quello di UBI Banca oggi. Esatto, UBI Banca ha fatto male, ha perso oltre il 7%, accelerando al ribasso proprio sul finale, perché non sono piaciuti i conti del primo trimestre che sono stati resi noti sabato scorso. L'utile netto contabile è crollato dell'89% e il mercato appunto non ha perdonato, diciamo, questo ribasso, che è stato superiore peraltro alle attese che circolavano sul mercato. Vicenda, chiedete di Unicredit, non l'ho data, avete ragione, meno 1,5%. Altri titoli in negativo, Eni ed Enel perdono il 2,2%, tra chi perde di più c'è anche Steelmicroelectronics meno 5%, Finmeccanica meno 4,80%, Pirelli meno 4,4%, Bulgari meno 4,3%, Impregilo meno 4%, Campari meno 3,6% come Saipem, e il 3,3% lo perdono sia Mondadori che Buzzi Unicem. E Autogrill perde 2,80. Dicevo, vicenda Telecom Italia Telefonica, l'ipotesi smentita dall'azienda, ma insomma, che Franco Bernabei stia pensando a una fusione tra Telecom Italia e Telefonica, è per questo che il titolo guadagna oggi il 2,5? Sì, per questo. L'ipotesi, come hai detto tu, è stata smentita, e peraltro sentendo anche un po' di esperti pare appunto viene giudicata un'ipotesi almeno per adesso poco probabile. D'altra parte a Piazza Affari si è diffusa sicuramente la convinzione che qualcosa stia per succedere nell'azionariato di Telecom Italia, soprattutto della controllante Telco che detiene il 24,5%. Soprattutto debba succedere qualcosa in ciò che riguarda la relazione con Telefonica, che detiene una partecipazione indiretta attorno al 10% sul capitale di Telecom Italia. E proprio questa convinzione ha fatto salire i titoli che comunque sono sottovalutati, continuano a essere sotto il valore di un euro, hanno chiuso a 0,96 euro. Di nuovo oggi sull'ottovolante andiamo a titoli più sottili, Seat pagine gialle più 8%. Sì, domani c'è il consiglio di amministrazione della società, che è chiamato a rivedere, a vedere i conti del primo semestre, quindi c'è grande attesa, ma soprattutto c'è grande attesa perché domani sarà il primo consiglio in cui si confronteranno i nuovi consiglieri di amministrazione, soprattutto il nuovo amministratore delegato Cappellini, che è stato nominato di recente al posto di Luca Maiocchi, che invece aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 9 febbraio. Quindi sarà un momento per rivedere anche quello che è stato il piano industriale, non dovrebbe essere rivisto, diciamo, l'impianto del piano industriale, però chissà, magari il nuovo amministratore delegato deciderà di apportare piccole modifiche. Ultimo titolo, anch'esso sottile, dopo la cessione delle attività britanniche, Tiscali oggi perde il secondo peggior titolo in assoluto, meno 8,5%. Sì, Tiscali era andata bene la scorsa settimana quando si erano diffuse le indiscrezioni sulla cessione degli asset britannici. Una volta che è stata diffusa la notizia, appunto, invece le azioni hanno imboccato la strada del ribasso, sia risentendo dei realizzi, sia del fatto che la società comunque ha lanciato, insieme all'operazione di cessione degli asset britannici, ha lanciato anche un'operazione sul capitale, un aumento di capitale, e quindi come al solito la borsa poi reagisce male alle operazioni sul capitale. Un ultimo titolo lo do io invece, e si tratta di Lottomatica, che abbiamo visto essere il secondo miglior titolo, più 3,6%, e qui pesa in maniera favorevole la pubblicazione dei dati e dell'andamento dei giochi in Italia nei primi mesi del 2009, dati positivi, il titolo ne risente in maniera positiva, infatti supera i 16 euro per azione Lottomatica. Grazie a Eleonora Michele, Radio Corriere del Sole 24 Ore, le informazioni per chi è in viaggio, e poi il primo bilancio di questo 2009 da un punto di vista fiscale lo abbiamo con il dato diffuso oggi dall'Agenzia delle Entrate. I primi tre mesi dell'anno cala, come era immaginabile, lo dico subito, il gettito, perché con l'economia in rallentamento, anzi in recessione, è difficile che l'IRAP e l'IRES gettino, diano un getto più alto dell'anno scorso. Qualche problema però anche sul fronte dell'evasione fiscale. Meno 4,6% le entrate fiscali tra gennaio e marzo. Ultimo tema di Focus Economia di questa giornata. Il calo nel gettito fiscale vale 4 miliardi, e questa non è una buona notizia per le casse dello Stato, e lo ha comunicato oggi il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia. Nel caso specifico, dicevamo, occorre contestualizzare, perché sennò si fa un'operazione di disinformazione. Con un'economia in rallentamento, anzi recessione, tra fine 2008 e inizio 2009, era ovvio che l'IRES buttasse di meno, e infatti fa un meno 12% nei primi tre mesi dell'anno, e così come l'IRAP, che ha fatto un meno 4,6% nei primi tre mesi dell'anno, e anche l'IVA, e poi lo si vede, diciamo, come verifica con l'IVA, il crollo della produzione industriale, le aziende fatturano meno, vendono meno, e infatti l'IVA cala del 10,6%, 2 miliardi e mezzo di euro di gettito in meno. Quello che ci lascia un po' perplessi, cioè questo era inevitabile, è che cala anche il gettito relativo alla lotta all'evasione, ossia quello derivante dai ruoli nei quali vengono inserite le cartelle esattoriali dovute alla lotta all'evasione, perché è sceso di 12 milioni di euro, meno 1,3%. Salvatore Padula, caporedattore del lunedì del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E noto esperto fiscale del quotidiano. Allora, tutto come previsto, oppure ci si poteva attendere qualcosa in più sul fronte della lotta all'evasione? Ma dunque, tutto come previsto, direi di sì. Anzi, forse, se vogliamo, anche un pochino meglio di come era previsto, e un pochino meglio di come era andato il primo bimestre, di come erano andate gennaio e febbraio. È evidente, tu l'hai ricordato, in un periodo di recessione le imposte sono destinate, gli incassi legati alle imposte sono destinati a diminuire, a calare. Il governo ne è consapevole, tant'è che nell'ultimo documento che aggiorna diciamo, i valori macroeconomici sui conti pubblici, il governo stima per il 2009 una flessione delle entrate del 2,5-2,7% rispetto all'anno scorso. Qui siamo al 4,6, quindi è diciamo leggermente, anzi direi in modo rilevante, superiore alla previsione, però mi sembra che, appunto, come dicevo all'inizio, rispetto a febbraio, quando il calo era stato del gennaio e febbraio, il calo era stato di oltre il 7%, si vedono alcuni miglioramenti. Il dato sulla per venire alla tua domanda, il dato sull'evasione fiscale mi sembra onestamente ancora un po' presto per valutare, no? Sui solo tre mesi dell'anno, con un calo tutto sommato dell'1% legato agli incassi da ruolo, mi sembra ancora un po' presto per dire che ci sia un allentamento della tensione su questo fronte. Noi chiaramente ce lo auguriamo. Tu fai bene a ricordare che comunque erano andate peggio le entrate a gennaio e febbraio. È chiaro che il governo, quando dice che il calo complessivo del gettito fiscale sarà intorno al 2,5-2,7%, fa una proiezione su tutto il 2009. Certamente. E siccome sappiamo, poi vedremo se le cose cambieranno, che la seconda metà del 2009 dovrebbe andare un po' meglio della prima, se no veramente abbiamo scherzato, è chiaro che il governo si attende che a gennaio, febbraio e marzo poi seguono dei mesi in cui, ripartendo un po' l'attività produttiva, il dato di oggi, la previsione di oggi su aprile per quello che riguarda la produzione industriale diffusa dal Centro Studi Confindustria va in questa direzione, ripartendo un po', non vuol dire che tutto torna come prima, lo dico chi scrive, ma che non è così male come a fine 2008, inizio 2009, e aumenterà anche o calerà anche molto meno il gettito fiscale. Perché dici che è troppo presto per dare un commento sulla lotta all'evasione? Perché diciamo le agenzie hanno battuto la notizia come se fosse abbastanza incontrovertibile, cioè fisco due punti, lotta all'evasione, cala il gettito nei primi tre mesi dell'anno. No, certo, questo è quello che ci dicono i numeri, no? I numeri ci dicono che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quest'anno sono stati incassati 12 milioni di euro in meno legati ai ruoli, quindi sono le iscrizioni a ruolo di imposte non pagate in precedenza, e quindi senz'altro c'è una flessione che è pari all'1,3%, e comunque, se proprio vogliamo restare ai dati, il confronto del solo mese di marzo vede un incremento di oltre il 50% sugli incassi da ruoli. Quindi per quello dico che probabilmente il dato sui tre mesi o l'osservazione del singolo mese poco dice su questa voce, che comunque stiamo parlando di 900 milioni di euro complessivamente, è veramente una delle, diciamo, più piccole all'interno. Purtroppo, la più alta evasione in Europa ha come voce delle sue entrate fiscali una delle più piccole voci dovute alla lotta all'evasione, ma questo è un tema che abbiamo già affrontato molte volte, perché poi tra l'accertato e il riscosso non parliamo, lì si arriva a meno del 4% di quello accertato. Quindi voglio precisare, io dico semplicemente che il dato mi sembra ancora un po' prematuro per poter portare appunto a una valutazione su un allentamento della lotta all'evasione, che probabilmente c'è, ma non lo vediamo da questi numeri. Mi sembra, se volete, più preoccupante, non so, il dato sull'andamento dell'IVA, che insomma risente invece evidentemente in modo più concreto di un calo dei consumi che anche le statistiche ultime dell'Istat hanno segnalato. Sì, infatti chi ci dice ma non basterebbe un calo del 10% dell'IVA per prevedere un calo uguale del PIL? No, non è così automatico. Cioè, sicuramente il significato è uguale, ma dire che se l'IVA cala del 10%, se questo significhi un PIL a meno 10%, per fortuna no, perché il PIL, le componenti del PIL sono altre, non è solo l'IVA pagata. È sicuramente un indicatore di quanto pesante sia la situazione sul fronte produttivo, perché l'IVA si paga su quello, ma anche sul fronte, come ricordava Salvatore Padura, dei consumi, perché chiaramente l'IVA la paghiamo anche noi quando andiamo a comprare un bene. Salvatore, prego. Sì, se no, se posso aggiungere un'altra cosa che riguarda invece i redditi, dobbiamo anche tener conto ogni volta che ci imbattiamo in questi dati che i mesi veramente rilevanti e importanti, no? Leggendo queste statistiche, sono i mesi di luglio, cioè quando tutti hanno finito di pagare quella che si chiama l'autotassazione, cioè le dichiarazioni dei redditi, e il mese di novembre o dicembre, a seconda di come cade, quando si versa il secondo acconto d'imposta. Sono quelli lì due mesi, tant'è che in quei due mesi le entrate tributarie raddoppiano, passano da 30 a circa 60 miliardi. Quindi sono quei due mesi quelli che ci diranno, insomma, quale sarà il destino, l'esito del gettito tributario. Allora, proveniamo le vacanze a Salvatore Padula, perché ti do appuntamento proprio a luglio, in quel mese cruciale, per capire a questo punto di quanto abbia pesato la crisi sul gettito fiscale e se ci sia o no un problema di contrasto all'evasione fiscale. Grazie intanto a Salvatore Padula. Da Sebastiano Barigioni, a voi in ascolto, le auguro di una buona serata. L'ultimo aggiornamento per quello che riguarda Wall Street è di un calo che è un po' più contenuto rispetto a quando abbiamo iniziato il programma. Perde l'1,2% il Dow Jones, mentre confermo che l'euro è a quota 1,36 sul dollaro. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.